Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Ciao, io sono Maurizio Mosetti e questo è Giro di Re. Si tratta di fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Racconti di giovani immortali, zappatori musicisti, barbieri, orologiai, figlie da maritare, re, principi, bambini, ragni e sarcicce. Sono storie di ieri, di oggi e per sempre. Buon ascolto. L'orologio del barbiere. C'era una volta un barbiere che aveva un orologio che camminava da secoli e secoli senza che nessuno lo caricasse. E non si fermava mai, mai. Non sgarrava mai di un minuto. Il barbiere lo aveva caricato una sola volta. E da allora in poi, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il barbiere era molto vecchio, vecchissimo. Neanche lui sapeva quanti anni avesse. Tutti i paesani accorrevano da lui e la sua bottega era sempre piena. Le persone chiedevano all'orologio tutto ciò di cui avevano bisogno di sapere. Veniva il vecchiarello, appoggiato al suo bastone, asmatico e stanco, e domandava: «Orologio, orologio, quanto olio c'è ancora nella mia lampada? Quanto vivrò ancora?» E l'orologio: «Tic tac, tic tac, tic tac. Dai 60 fino ai 70 brucia via l'olio alla lampa. Quando i 70 prendono il volo, s'accende a stento il lucignolo solo.» Tic tac, tic tac, tic tac. Poi veniva il contadino, che aveva bisogno dell'acqua per la semina. Nemmeno una nuvola si vedeva nel cielo, da mesi e mesi. «Dimmi, orologio, quando pioverà?» E l'orologio: «Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Finché son rosso io, l'acqua non viene, il cielo è mio. E tuonando e rituonando, se ora non piove, pioverà un altr'anno.» Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Veniva l'innamorato, col naso all'aria, tutto montato. «Dimmi, orologio, c'è nessuno più felice di me nel regno dell'amore?» Tic-tac, tic-tac, tic-tac. «Se il regnante non ha giudizio, dal trono cade nel precipizio. Oggi fa tanta figura, e domani è in sepoltura.» Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E c'era il povero, digiuno, mezzo nudo, malato dalla testa ai piedi. «Orologio, orologio, quando finiranno questi guai? Dimmi, per carità, questa morte quando verrà?» Tic-tac, tic-tac, tic-tac. «Agli infelici, ai disgraziati, spesso più giorni son destinati.» Tic tac, tic tac, tic tac. E poi veniva il delinquente, il capo della malavita, e dice tutto ingrugnito: «Dico a te, orologio, quanti ce n'è di galantuomini che la possano far franca a questa mano? Parla, che ti si rompesse la corda!» E l'orologio, più ingrugnito di lui: «Tic tac, tic tac, tic tac. Chi corre scalzo sulla tagliola, o prima o dopo ci lascia la suola.» Tic tac, tic tac, tic tac. Tanta gente veniva a vedere questo orologio meraviglioso e tutti domandavano. E a tutti lui dava una risposta. Questo orologio sapeva dire quando maturavano i frutti, quando veniva l'inverno e quando l'estate, quanti anni viveva la gente, a che ora faceva giorno e a che ora tramontava il sole. Insomma, era un orologio straordinario e non c'era cosa che non sapesse. Ognuno l'avrebbe voluto per sé, ma nessuno lo poteva avere e perciò la gente si accorava inutilmente. Ma alla fine tutti dovevano ringraziare il vecchio barbiere che aveva saputo costruire quel prodigioso orologio e per sempre l'aveva fatto camminare e che nessuno mai al mondo avrebbe potuto rompere né conservare, tranne il barbiere, il maestro, che l'aveva così ben creato. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.